Dove vai? Quando poi resti sola? Il ricordo, come sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio. E da allora solo oggi non farnetico più a guarirmi chi fu. Ho paura a dirti che sei tu. Ora noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare, le distese azzurre e le verdi terre, le discese ardite e le risalite sono il cielo. Dove vai quando poi resti sola, senza ali tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto così ampio. Stalattiti sul soffitto i miei giorni con lei, io la morte abbracciai, ho paura a dirti che per te mi svegliai. Oramai fra di noi solo un passo, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare, le distese azzurre e le verdi terre, le discese ardite.